Radio Flow Valerio 123456 prova 123 123 123 456 prova. Ah, funziona, tutto a posto, sì, sei sicuro? Ah, meno male, era ora, caro. Almeno tu ci passi qualche volta a tirarmi tiranti. Tutto a posto, non ti preoccupare. Mi stavo vedendo da ridere perché cazzo, ho passato, ho passato il vento l'altro giorno. Aiuto, è strano questi a tan sopra. Non è che ho preso l'antenna, invece l'antenna c'è ancora. Grazie a Dio. Come è? Buonasera, dimmi. Quando è che ci vediamo? Devo dire due cose. Anche adesso se vuoi. E allora se non dobbiamo venga anche io. No. Ciao, ti chiamo e ci vediamo alla Kuwait. Quando vuoi, dai, non c'è problema. Dimmi tu, non lo so. Quando vuoi tu, anche adesso, non lo so, se non sei nulla, cioè non c'è niente da fare, non lo so. No, domani no, ci sono, sono davvero per comprarmi mia mamma. Ma dopo domani ti chiamo, mercoledì ti chiamo di mattina e ci vediamo un attimo alla Kuwait. E che mi pensavi di fare? Quale problema? Se c'è qualcosa di urgente, ti posso aiutare, non c'è problema, non è quello il problema. Già lo sai che io a baracchino non è che entro, già l'hai visto, quindi a un certo punto. Se c'è qualcosa di urgente, mi chiamerai al telefonino e non c'è problema. Beh, aspetta, ti chiamo due minuti. Non è niente di urgente, Antonio, ma ho bisogno di dirti due cose, aspetta che ti chiamo. Ah, bene, dai, ok, non c'è problema, non costa niente, non c'è problema. E la sera mi sta chiamando Claudio, poi ti rispondo, dai, due minuti. Ancora non avevo, ho ricevuto la chiamata, dai, dimmi. Chi sei? Adesso non ho capito chi era, quello più basso. Aspetta, mi sta chiamando lui, due minuti, Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Gianni. Ui. Come va? Tutto ok. Sono contento. Non ho capito chi sei. Sono Falcone. Operatore Paolo. Sei peloso, sì. Ma se sei Alessio, la radio è diversa, boh. Appunto per quello. Adesso sei tu. Adesso poco fa era diversa, non capivo chi. Ma è stato giubbottito, per metà, È molto pompa. Che non pompa. Già pompa, vero, molto pompa. Già pompa, se voglio, già lo sai. Sono con l'LMS 200, sto usando quella adesso. Quindi figurati tu. Era tornato, Marco. Ah, non ho capito. Ho detto, Marco, te l'ha tornato e un altro. No, io l'ho regalato a Marco, il discorso è quello, me l'ha tornato per usarlo io, in modo che, come si dice, no, lo faccia scaldare, diceva quello, dopodiché glielo ritorno, è roba sua, amica mia, e ci mancherebbe. No, per carità, non sto dicendo nulla, perché mi aveva detto che un po' l'aveva stufato, che prima le piaceva molto di più e poi un po' l'ha stufato, vabbè. Avanti, Claudio, buonasera. Ciao Gianni, ciao Antonello anche, buonasera, ben ascoltato. Ce l'ho anch'io l'LMS 200, non lo uso mai, sono scaffale naggio di terra. Ui, per carità, quanti baracchini, quante cose, buttate, Dio, no, io già le custodisco bene, ma c'ho l'MS200, sono tanto non l'accendo, io di solito accendo il, c'ho il 4000, il Superstar 3009, l'Elbex il 4882 che funziona molto bene, poi quello c'ho, sì, l'RMC 200 e ne ho di quei baracchini. E l'RMC 200, no, vabbè, ve lo faccio nero perché marrone non mi piace. Oh, il mio è già nero, perché è marrone. L'RMC 200 originale è marrone. Io l'avevo comprato così, nero, i che sono neri, perlomeno che mi ricordo io sì, nello scaffale. No, no, sono neri. Forse li avevano già verniciati, ma belli, nuovi. Forse li avevano già verniciati. Sai chi me l'aveva dato a me? Eh? Roberto Meccanico. Ah, sì, lui ce l'aveva, bene. Lo usava con Savelta, quello che mi avevo raso io. Perché? Aspetta, comunque c'ha ragione Gianni, è marrone quello che c'ho io, la verità. Il frontalino e anche le... cioè, come ti dici, quello che ti posso dire, lo chassis esterno e anche interno. È marrone, la verità è marrone, la verità, eh. Bu. Copirchi, c'è stato un break, mi sa, avanti questo break. Buonasera Cocomani, volevo chiedervi se anche voi avete il QRM 8. Zero ce l'ho io, il QRM 8. Niente, brutto, zero, forse era zero. Buonasera a tutti. Sì, siccome ho acceso, ho visto che in tutti i canali c'è QRM 7:30-8, ma solo oggi, gli altri giorni era, tra virgolette, normale. Va bene, volevo chiedervi quello. Un saluto a Antonello, Claudio e Gianni che rilancio, vai. Sì, no, Marco, ciao, buonasera. No, qua QRM è proprio zero, non ne ho niente, proprio nulla. È strano, forse il traffico che c'è, anche quello può essere che causa QRM. Sì, Claudio, no, come nasce? Roberto Meccanico io l'ho conosciuto anche quell'apparato lì, perché lo usava con il Sanelta, quello tipo rasoio, e usciva un bel fossi. Sì, ce l'aveva nella macchina, già lo so, sì. Sanelta quello piatto con la gratta argentata. Sì. No, questo non volevo, io pensavo che era nero, non me ne sono mai accorto. Cioè, i coperchi sono neri. Anche il frontalino è un marrone scuro, sì, quello sì. Ma si giostra molto bene col nero. Va bene, nuovo. Funziona bene, c'ha 15 watt mi sembra esce. Non mi ricordo, esce molto bene, però il Comes 4000 e il Superstar il 3009, io ho il Comes 4000 di Nello Mangattia, l'avevo preso tutto io, e il 3009 che lo metteva in macchina, sono tutti e due ma fiammanti, nuovi, infatti c'era uno, mi ha chiamato se glielo vendevo, ho detto di no, perché sono dei ricordi, delle cose, e quindi niente. E ce li ho tutti e due. Il Colles 4000, Antonio, non ce l'hai tu, non ce l'hai più tu. Il Colles 4000, la verità l'ho venduto, già te lo ricordi. Poi, vabbè, l'unica cosa è anche il... come si chiama? Come detto, come devo dire? Per prendermi il 140, se ti ricordi. Avevo venduto quello e... anche un altro apparecchio, addirittura, se ti ricordi, ti avevo dato tutti i soldi contanti. Cioè, quell'apparecchio mi aveva dato, quello si chiamava Natalino, che poi Natalino si è incazzato perché l'avevo venduto, eccetera, ti ricordi? Sì, già me ricordo. Sì, che mi avete, aspettami, non lo dare che devo vendere due baracchine e poi mi prendo 140, sì. E tanti anni fa ero ancora carbonati. Sì. Va bene, no, con i 4000 non si è la radio, 2009, vabbè capelli, quello nello poi c'ha un sacco di watt, c'ha la regolazione della potenza per arrivare fino a 25 watt. Non ho capito se è modificato, se è così, non la conosco come radio. Però ce l'ho anche quella ogni tanto, l'altra volta l'ho usata, mi sembra con chi ho fatto le prove, ma non me ne ammetto, ho messo le MB più 4, esce Grazie, molto bene, molto bene. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Comunque QRM qua 0, tutto 0, 0, 0. Avanti Gian. No, anche qua non ce n'è proprio nulla, non ce n'è proprio niente. E probabilmente lì è una zona caotica, c'è traffico sempre, e probabilmente anche quello. Qui non ce n'è nulla, nulla. È strano. O è il cavo. Il cavo che sta dando problemi, ma penso di no, Marco. E io, guarda, a me quell'apparecchio mi piace perché c'ha i canali continui e in più perché ha le manopole grandi. A me mi piacciono così gli apparecchi, con le manopole grandi. Allora guarda, io c'ho il Percipson, ti mando la foto, c'ha un manopolone grande davanti, base, ma grande, più grande dell'MS200, mi sembra più grande, perché sono uno sopra l'altro e vedo che esce un pochino più fuori, il Percipson veicolare, che poi è un veicolare proprio da casa, perché in macchina non si può mai mettere quello, è un bel manno, c'ha un manopolone grande davanti, i tasti enormi, tutti i potenziometri enormi, c'ha tre potenze, c'ha anche le bande laterali, è una favola quella radio. Nel manopolone, no, già c'è il manopolone grigio grande, all'interno del manopolone ti segna tutti i canali, 40 canali, tutti ti risegna dentro il manopolone, ma è di una bellezza acceso che è la fine del mondo. E come si usavano prima con la luce attorno, che c'è la ghiera con la luce, sì ho capito. Ma quello c'ha anche le manopole, lo stesso, quella che ti ho detto io, che c'aveva Roberto Quadrato, quello lì, l'MLS200, è una favola, perché io l'avevo comprato su internet, allora ci stavamo facendo, io stavo facendo praticamente un'asta, c'era un'asta, io ho rilanciato a mezzanotte e praticamente me l'ha giudicato, toccatemi il telefono a volte, bravo, sì, mi hai preso l'apparecchio da sotto al naso, e ho preso quello lì, è un lineare da 300 watt della ZG, tutto 150 euro, e praticamente gli ho detto, io non ne sapevo, lui aveva un link, quindi non sapevo chi era, chi non era, e gli ho detto, vieni, guarda, ti regalo il lineare, tanto io non ne faccio nulla, gli ho regalato il lineare da 300 watt per metterselo nel furgone. Ma dimmi un po' come sta uscendo, questo è il Midland che ho modificato, che mi hanno regalato, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, come sta uscendo? Voce cupa. No, voce è un po' cupa, però è abbastanza chiara, diciamo, però un po' cupa. Vabbè, va così, questo tipo di apparecchi, lo sai anche tu. Dipende dal microfono che li piazzi, questo è F10, quindi va bene, va, più che altro. È un Midland, da cavalli, adesso mi ricordo 4-6-2007, brutta, 4-6, non si legge, ma comunque sia, funziona bene, grazie a Dio. L'ho modificato, come faccio io, non lo sai, 15 watt un'uscita, è un treno, non ce l'è così, un giro, manco gli 8. Magari se allontani la bocca riesci a risolvere il problema della modulazione, Ali. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, l'ho modificato perché gli ho messo l'LC alla manetta, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, dovrebbe ricevere, eccola qua, io sono a 25-30 di distanza dal microfono. Ah, entra e va, Claudio. Cazzo, ho ragione Gianni, troppo attaccato, adesso va bene. Ottimo per la truppa, modulazione buona, segnale il tuo. Però volevo dire a Marco che stavo notando poco fa che il segnale non è il suo, era S9, Marco a me mi arriva 9 più 15, anche più 20 a volte. Quindi non vorrei che quel QRM che c'ha ci sia qualche problema nell'antenna, capito? Perché segnale non era suo. Senz'altro sì, comunque sia, vabbè, adesso aspetta, stacco questo e stacco l'altro, quello con l'eco, quello che uso pochissimo, la verità. Aspetta un attimo, due minuti, così il controllo. Questo è 15 watt comunque, modificato, già lo sai, midband, lo faccio a occhio nudo senza andare, metto addirittura, perché so come, a memoria come farlo. Due minuti, rientro subito. Marco, ripeti, che guarda il segnale. Cosa? Sì, guarda che io sono con meno di 3 watt di portante muta, si usano meno di 3 watt, modulati saranno sì, forse 4, ma penso meno di 4. Oggi sono nudo e crudo, c'ho anche la voce afona, e quindi da, devo parlare poco. Io qua stavo facendo roba, e quindi devo riassettare, magari rimango all'ascolto. Se volete ve lo attacco, ma già lo sai, è quello. Io, è raro che scavo 3 watt. No, ma tu che sei 9.30, sì, tranquillo, come sempre. Già, ma è sempre il discorso che siete tutti attaccati. I segnali ve li posso dare io che sono distante, non vedo Sassari, quindi mi accorgo la differenza. Marco, allora qua con i 4 watt mi arrivi, mi sei sempre arrivato 9.10, 9.8, 9.10. Quando attacchi sei 9.20 abbondante, capito? Però adesso sei 9, quindi non vorrei che ci sia qualcosa, visto che c'è questo QRM. No, ho controllato le stazionarie anche Claudio, per curiosità, e non ce n'è. Guarda, adesso attacco. Conta che non sono 4 watt, Claudio, sono meno di 3, portante muta, guarda, adesso attacco. Diventeranno... Già sta salendo, sì, non vedo niente qua. Non vedo l'amperometro. Allora... saranno una sessantina, 60-65, non di più credo. Sì, un 3 più del 9.30. Anzi, sei passato da 9 a 9 più 20, il tuo segnale. Quindi conosci 9 più 20, sei sempre avanzato, la massa te ne varia. Io ho, per chi dovesse servire, un BV 132, non 131, e poi altre due lineari veicolari, Se serve a qualcuno fatemelo sapere, non è roba mia, è roba che mi hanno dato da Alghero, un amico da vendere, ma è tutta roba nuova, funzionante. I veicolari cosa c'hai? I veicolari sono quelli della ZG, due della ZG, dovrebbe essere un B150 e l'altro un B300 mi pare. No, no, ZG non è buono, se fosse stato 747 magari ci avrei fatto un PCD. Cazzo, ma lui dice, tu sei un guasto, e già mi fa incazzare. Cazzo, ma l'hai fatto dare a Bruno, nuovo, ma 50 euro, nuovo, dentro la scatola, quello che ho dato a Bruno di questo amico di Alghero. Io non mi sono messo in mezzo, Claudio, perché lo stavi dando a lui, non so, per educazione non mi sono messo in mezzo. Ma se lo busco, già lo trovo. Chissà quanti ce ne ha la GBC, adesso quella roba lì chissà dove andrà. Secondo me la compra Marzia, quella roba lì che c'è dentro. Registrato il becca, aspetta che ti faccio entrare. Guarda, ti dico solo una cosa, che domenica mattina era aperto e dentro c'era gente che dalla faccia mi sembrava roba di polizia, guardia di finanza, stanno facendo l'inventario. Non so come va a finire lì Gianni, perché quel negozio è talmente carico di roba, bisogna vedere se tutta la roba è pagata praticamente, capito? Perché altrimenti le aziende la rivolgono indietro, quindi c'è la gente facendo l'inventario domenica mattina, capito? Avanti Antonio, e poi fai il break, mi sembrava Carlo. Va, ciao mi. Inventario da qua, ma se non so se mi sono sbagliato. Oppure qualcuno è sciatto. Cos'è questo? Insieme di roba da qua, tu hai fatto il trappolamondetta dietro. No, no. attaccato a me, io non ho capito una sega. No, no, abbassa la portetta, c'è tutto satiro. Marco, spiegaglielo tu. Aspetta. Ma sei tu, tu? Aspetta, fatti mio. Eccolo qua. Hola, hola. Adesso va bene? Ah, qua sei tu. Beh, visto. Stavo dicendo, in pratica, che è un casino di là. Il primo che arriva, sono sicuro che la roba se la porta via lì a GBG, capito? Adesso non so se è a GBB, se è Fusano, se è quello di quel napoletano, lo sai che fanno. Metto tutta la roba buona da una parte, la roba che non serve un cazzo ce la buttano nel caso della montezza. Quindi a un certo punto aspetteremo. Dove vediamo la roba, se la vediamo lì a Pedaleta oppure se la vediamo da qualche altra parte, da Tavoli. Non si va a fare la guardia, non metti che andrà a fare la roba di la biglia. Ne volete sentire una? Stamattina, vabbè, sono uscito con mamma, siamo andati a Piazza Le Segni, sono passato davanti alla GBC, no, che ovviamente è chiuso, e davanti alla soglia c'era un pacco, probabilmente qualche cosa che avevo ordinato in passato gli è arrivata oggi, e c'era uno scatolone con tanto di etichetta lì davanti alla serranda ormai chiusa, ma ci credi che gli sono venuti gli occhi lucidi, cioè la roba ancora gli stanno consegnando e lui non c'è più. Vabbè, vai Claudio. Ma io, a me mi hanno raccontato come l'hanno trovato e quindi non ve lo dico perché è veramente impressionante. Era già da qualche giorno, era già da qualche giorno morto dentro casa. I vicini non lo volevano uscire perché lo volevano spesso uscire, entrare e uscire, hanno chiamato i carabinieri, i vigili del fuoco e lui era morto per terra, quindi non sono cose belle né da vedere né da dire, soprattutto con una persona che abbiamo conosciuto tutti noi appassionati di radio. È bruttissima una cosa del genere. Vabbè, chiudiamo il discorso, pazienza. Mi sembra che e poc'anzi c'è stato anche un altro break, forse era Carlo, avanti. Oh, Giuseppe Aquilaneale, c'è via tutta la ruota. Ciao Giuseppe, mi hai sentito, buonasera. Ciao Giuseppe, ben ascoltato, buonasera. Avanti Popo. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. Salutoni. Giuseppe, dove moduli? Giuseppe, da dove stai modulando adesso già? State dicendo a me da ottava. Ma sei nuovo oppure ci sei già da un po'? Diciamo che sono nuovo adesso, ma ho iniziato a prendere il baracchino che c'è studiato. Poi vabbè, poi è rimollato come tanta gente qui ripreso, ho capito. Vabbè, riprendi va. Eia, un saluto a chi è entrato, io devo fare un attimo di bianco perché stavo riassettando qua, dai, se no non finisco. Mi era sembrato di sentire per un istante il profeta, se l'ascolto vengo avanti, se era lui, avanti. No, ho preso un abbaglio, allora riprendi Antonello, dai. Anche io ho avuto la stessa impressione, magari voleva fare un intervento, ma... No, non era lui. La verità non l'ho sentito io, ma comunque al limite se entra non c'è problema, quando vuole può entrare, non c'è problema. Oh ragazzi, datemi 10 minuti che vado a accendere il riscaldamento. Avanti Giuseppe, riprendi. Sei capa. Innanzitutto se potevate darmi un controllo sul microfono, che ho un microfono da tavolo, sapere com'è la modulazione. Il segnale è radio 4. Cazzo, in 4 vedi, va vedendo, in 4. Ah, ripeto, 7 era di 4 per me, poi per Claudio non lo so. Dopo tu, Claudio. A me mi arriva tra il 7 e l'8 e la radio è 4 lo stesso. 5 non te la do perché non è chiara. Vediamo Gianni. Lo stesso io ho detto, dovrebbe magari alzare il volume perché non è amplificata la radio. Se è un microfono amplificato non si sente l'amplificazione. Capito Giuseppe, tira un po' su, fatelo regolare da Gianni, da Marco, da Antonello, che io mi allontano un attimo, vai Marco, Marco si è allontanato, riprendi tu già, dai. Capo, Giuseppe, per alzare il volume del microfono per vedere come va. Guarda, adesso sia il volume del microfono che quello del baracchino che controlla il microfono tutto al massimo. Mi sto avvicinando un po' di più al microfono, dimmi com'è. E adesso va meglio, dai. Va meglio, però non so che microfono stai usando. Si sente l'amplificazione, ma non è, diciamo, al top, dai. Un pochino si sente, adesso si sente, più chiaro. E probabilmente devo alzare nei setting dell'apparato e alzare un pochettino il guadagno del microfono. È una static. Ah, una static, ho capito, e l'ho avuto anche io ne avevo uno a static, che sembra il Thunder, così, come fermo? Ti sembra? È uguale al Thunder più o meno, come conformazione. Sì. Ho capito qual è, quello nero. Adesso comunque si sente molto meglio, ti devi avvicinare un po' e va meglio, dai. Avanti a chi tocca. Ci tenderebbero i bisogni. Esagerato. Ti sento uccelli che cantano. Vabbè, dai, sono esagerato. L'hai pigliato per acquistare il giorno che si sentivano quando parlava Palacchino e lì come si chiama? Cos'era? Il pappagallo, cos'era? Che gli fischiava dietro a un certo punto che tu, e lo stavamo durato. Allora, anche il giorno, Alessandro, la c'è proprio a pagarlo, va, la mazza nell'aria. Vabbè, datemi 5 minuti, Gianni, riprendi tu e fai girare, io già rientro subito, vado ad accendere la caldaia, sennò no che ci muori dallo freddo. Che pappagallo c'aveva, Antonio? Non me lo ricordo di questo pappagallo, io mi ricordo quando modulava la macchina che c'aveva quell'antenna con i radiarini, a quella di Gnoglio. Il meno indiano c'avate, se ti ricordi. Il meno indiano, sì, non era un pappagallo, infatti io non mi ricordavo un pappagallo. E vabbè, io ne ho 3 pappagalli. Ma questo era allucinante, faceva un fischio fatto, lo massacrava lui, lo sentivi più a lui, sentivi solamente il mello indiano, lo sovramodulava e basta. Sì, da voi voti, nonna, se fischia il mello indiano ti devi tappare le orecchie perché c'è un fischio potentissimo, ti penetra proprio. È bello perché è bello, ohia. Ce n'era uno che a me mi fregava sempre, faceva l'allarme della macchina, prima che io lo premessi, l'allarme, si diceva oui. Guardavo tutto attorno, poi un giorno la padrona si è affacciata alla finestra e mi ha detto, non vede che questo delinquente che lo prende in giro ogni giorno è interrato, come vede che sta arrivando a fare l'allarme. E io lo dico, ma già me lo ricordo di dove abiti tu, abitava come si chiama, la buon'anima di là, se non mi ricordo il nome nativo, abitava da fianco, abitava da qua, ne passavo due parti prima la verità, ma comunque sia, ci passavo spesso, ci passavo, capito? Torre alla verde. No, è d'accordo, Edio Lavoccia abitava prima, due parti prima di te. Non ho capito. Edio Bravocialdi abitava due palazzine prima di te. Ma non lo so io, non l'ho mai visto, mai. mai visto. Beh, io sono andato parecchie volte di quella palazzina, ci siamo visti eccetera eccetera, perché abitava lì con una persona che era anziana, c'era avuto se no 80 anni, 85 anni, roba così, capito? E quindi poi quando è morto lui ha lasciato tutto a lei, capito? Adesso non so, non so gli apparecchi che fine abbiamo fatto eccetera eccetera, ma comunque penso che sarebbe tenuti lì. Io lo sai quante notti ho passato con Elio nel Ville di Salis quando faceva la guardia giurata, notti e notti, il sabato notte andavo sempre tutte le notti a fare compagnia. Tu, sono io, andavo in moto e te lo ricordi, poi c'era quella coppia famosa, quella che è in pratica era una coppia strana, la verità, fidanzata eccetera eccetera, poi a un certo punto ha preso Elio, si è incazzato a piano e ha sparato, cazzo, e ha sparato al coso, alla pianta, lo sai come ti sei uscita, Edda? È paratura, sei uscita, adesso basta, direi. Adesso venite qui ogni giorno a girarmi le balle, cosa del genere, cazzo, se mi dovete zuffare, mi dovete a casa, no, dove sto lavorando io, detto. Ma di testa fa venire con questo ecco? Sempre questo dico, la verità, Disturba, abbassa questo ecco che è troppo forte, che ripete troppo. Forte. È normale, la verità, anzi l'ho diminuito più che altro io, no? Perché se l'avete sentito come me l'ha dato questa parico qui, era incomprensibile a un certo punto, quindi l'ho diminuito io, ecco, hai capito? Sai quante volte ripeti dopo che parli? Io so, l'ho diminuito io, ma cosa ci devo fare? C'è tutto. Guarda un po', adesso devi dormire il vecchio che... Guarda, così va benissimo, lascialo così. Vabbè, lasciamolo così allora. Sì, bello forte, però non c'è quel disturbo della coda che ripeto poi di voi. Io lo sai che... quel periodo si usavano gli eco... tipo Carvaccio, come ti posso dire, quelli non sono ecco, quelli sono ecco Carvaccio, insomma, non sono ecco quelli proprio, quelli per la macchina, per casa, eccetera, eccetera. Uso Carvaccio per i camionisti, capito? Fare non va bene quello non serve proprio all'Occidente, non serve proprio niente. Se fai un eco, fallo come lo faccio io, e tu lo sai, come l'ho usato sempre io, l'eco ripetitivo a due ripetizioni, basta, come se fossi in chiesa, tu fai ma ti ripeti due volte una parola, non di più. Così, attenzione, all'inizio. Cioè, te lo ricordi come ho fatto quella palla che ho venduto, già te lo ricordi? Quindi vedi tu dico l'ho fatto io, l'ho fatto, ho modificato io. Allora c'è chi aspetta, Marco lo riprende, avanti l'amico d'ottava, non so come chiamarti. Giuseppe o Aquila Reale. Comunque dai, io a caso delle cose da fare vi saluto. saluto a tutta quanta la ruota, alla prossima. Ciao, dai, ci ha fatto piacere che sei entrato, dai, quando vuoi, siamo sempre qua sul 10, dopo le 6 e mezzo ci siamo. Sì, 6 e mezzo, la sera, sino alle 8 e un quarto ci siamo sempre. Buona serata, buona continuazione, avanti Marco, ci sei? No, Marco non risponde, avanti Ali. Eia, sono qua, saluto l'amico da parte mia, non c'è nessun problema. Aspetta un secondo che sono da fare la pupù, se no me la faccio addosso. Mi sembra un gangreo. Se no sono fregato, aspetta. Claudio, ci sì. Chi è rimasto? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? A qualette? Cipi, cipi, cipi, cipi, cosa fai? Cipi, cipi, cipi, cipi, dove vai? Regale, pezza sasso, che cacchio è? Cipi, cipi, cipi, cipi, dove vai? Ciucu, ciucu, ciucu, ciucu, come mai? Venga, fatele la cacca. Sono di Pondicam. Ma non mi hai visto quella vecchietta che c'è su internet che dice la cacca faccela? Ehi, a dimmi. Ehi, ho detto, quella vecchietta, l'hai mai vista? Quella vecchietta che fa quella... quel coso? Su Facebook l'ho vista. Quella che dice, la cacca faccia le ci mette a ridere. Ce n'è anche di più su Facebook, addirittura. Hai visto quello che ho mandato io? Dei politici l'altro giorno sulla mia storia, in pratica c'è epoca di Mondetta, cocco i politici manco una mai tua, sei tutta una massa di ladri. Lo so, io me sono d'accordo, infatti. Aspetta, mi ha scritto. Ma cosa ho fatto a sapere questa cosa? Sono... aspetta un attimino, 2 minuti. E io faccio sapere, aspetta. Mi sta perseguitando a casa questo. Gli tiro da lì giù. Cosa avete? Ma tu vai su questi tipo, non mi puzza. Mi sì. Conto del pub, diceva quello, no? Se tu vai a controllare di lì, a volte ti trovi delle cose come si deve, dopodiché invece ti trovi cazzo delle ragazze che sono porno, hai capito? Tutta roba americana, hai capito? Tutto lì. Tu basta che guardi il conto del pub, hai capito? Vogliono soldi e basta, non vogliono nient'altro. Io come vedo non mi strani che non sono italiani, manco le cerco, nemmeno rispondo. Ah, tu sto dicendo, conto del pub. L'altro giorno mi ha scritto la figlia di quella che fa SIS, come si posso dire. Ma no. Quella ragazza che fa l'attrice, con le lacrime, eccetera, eccetera, voleva che in pratica ricaricavo la cartina, e poi ha giocato mai, fatti fare il culo, e tu, che tua madre ha detto, guarda, ha detto più di te, e più di me, non sono l'altro, ha detto, a un certo punto. For that. artificiale parla con la voce di Genescuti e dice quello che vuole. Esatto, sì. Quello che c'è, aspetta un secondo che... rispondo a questa qui, aspetta un attimo. Ma Marco l'aveva andato. Marco si è messo. Ciao, si è perso Marco, non ti preoccupare, fregate. Sono a chiamo io, mi chiama lei, hai capito? Il numero tuo, c'è. Ho capito. Cosa c'ha il tuo numero di telefono? No, non c'ha il numero di telefono mio. Su, come si chiama? Ah, fa ancora, aspetta, lo dico io subito. Zangi, in pratica tu ti scrivi di lì, in pratica c'è un numero totalmente diverso da quello normale, hai capito? E ti chiama lì, e nessuno ti trova. Ma come fa a chiamare? Il telefono squilla. Ah no, è da solo il centro, Zangi. Gaggi, no, non ho capito manco che cosa è questa cosa, io non l'ho mai sentito. Zangi, mi. Senti. Zangi. Aspetta che le rispondo, 2 minuti, se no cazzo mi rompe le palle. Ho detto, ma cosa ho sentito di incontro? No, veramente mi ha incontrato lei, no? Non mi sono incontrato io. Quindi a un certo punto il discorso è diverso. Ma comunque sì. Non mi hanno fatto niente, la verità. Solo amici e basta. Hai capito? Sì, ma di dove è questa? Americano, quindi figurati tu se io capisco qualcosa. Ma lasciami zì. Appunto per quello, quindi a un certo punto, ma comunque sì. Lei scrive in italiano, quindi a me mi sta anche bene. Tutto tempo perso, lascia perdere. Io posso capire se abita a Sorso, a Sassari, a Porto Torre, se ne dintorni, dai, ma quando vieni in America, cosa cacchio fai? Cosa ne posso dire io? Mica è colpa mia. La verità mi chiama quello. Lei è una persona, anche un amico, per un amico ci tiene, lo chiama al telefono, giusto? Quindi, se fosse stato voi chiamato, non ti avrebbe neanche chiamato, il discorso è quello. Sono io, sto andando a batteria, allora ho provato a staccare il contatore e sto andando a batteria da 12 e qua è mai sparito, è tornato normale, quindi è qualche carica batterie che c'è in casa di qualche telefonino, qualche switching schifoso che mi sta facendo un po' di QRM, devo staccare un po' di roba. Va bene, riprendete, è bianco per me, si riattacco la luce. Comunque stai andando bene. Sì, sai, con 3-4 watt va bene la batteria. A proposito di luce, l'altro giorno c'è stato un blackout di 14 ore qua. È mancato da 9:10 di sera fino alle 11 di mattina. 14 ore di blackout. Fuori, mai visto una cosa del genere. Sicuramente il vento e la pioggia ha fatto danno. Va bene, bianco per me che riattacco la luce. Ciao. Sì, vai. Ma poi niente di nuovo, se no io spiego, ci facciamo da soli, diciamo, ti lasciamo. Torino, hai trovato entrato, boh. Sono qua, tanto lei non capisce un cazzo di... Cioè, io capisco un cazzo di italiano, cioè, lei capisce un accento di italiano, io capisco un cazzo di inglese, quindi a questo punto siamo a posto. Ma c'è il traduttore, traduttore. No, già c'è il traduttore su, non c'è problema. non mi scrivere in italiano. Chi? Che non mi commenta? Avanti. Hanno parlato, ma non ho capito chi è. Ho riattaccato tutto, alimentatore tutto. E boh, chissà cosa poteva essere Antone. Dovrò andare all'esclusione. All'esclusione. A uno a uno devi provare, cos'è quello? A proposito di quando mi hai venito tu, ti dico di stasera. Vabbè, non c'è nessun problema, capito? Anche perché io non c'ho nessun... cioè, non c'ho niente da dividere con nessuno, diciamo così, da... Più che altro è stata una puntiglia, hai capito? Da parte di certe persone, tutto lì. Tutto lì. Vabbè, comunque va bene così. A me mi sta bene. Qual è il problema? A me mi sta bene. Ah, di quello di cui avevamo parlato l'altra sera, vabbè, se lo sai, i giovani, Luca Bolivuma, importante che sia una cosa passeggera. Bene, sì, adesso vado all'esclusione, Antone. Vado all'esclusione, provo a staccare, per esempio, ho attaccato il caricabatteria del ricevitore Uniden, che è l'unica cosa che non attacco mai, se non per caricare le batterie. Di solito lo faccio di notte quando non sono al baracchino, adesso provo a controllare se è quello. Eia. Ui, mamma mia che fiacre c'ho oggi. Dai, riprendi Antone, dai, che ti piglio un attimo una bottiglia d'acqua. D'acqua non c'è problema. Tranquillo, tranquillo, no, non c'è niente di quello che mi hai detto tu, è un'altra cosa, più che altro, capito? Quindi, è un'altra cosa. Quindi, più che altro, vabbè, va, non me ne fate niente, io sono qua, rimango qua, e quindi se uno non mi va, se può andare a fare un culo, discorso è quello. Vabbè, poi se me lo vuoi raccontare mi chiami domani eccetera, non lo so, se è un'altra cosa allora no, credevo fosse qualcosa che ti avevo detto ieri o l'altro ieri un po', da. Va bene Antone, io adesso che ora è? Ora di cucinare, vediamo. Come, ancora le 7:15, credevo fossero le 8:15 minimo. No, prima, non ti preoccupare. Vabbè, c'entra anche quello, la verità, comunque sì, hanno fatto un coso e vabbè, non devo dire niente perché ho ricevuto una chiamata da un paio di amici, quindi a un certo punto. Ma comunque sia, non me ne fate nulla, non me ne fate nemmeno perché non ho fatto niente, quindi a un certo punto se la posso prendere in culo, il discorso è quello, non ho fatto niente, non ho bruciato niente, non ho messo fuoco alla casa, non ho messo fuoco al coso, quindi a un certo punto che pensino alle cose loro e se ne parli me la fa in culo, il discorso è quello. Conferma, cambio. Sì, però non ho capito Antonello allora di cosa mi sta dicendo. No, io avevo accennato solo Antonello di dire qualcosa al parente piccolo, che è un pochino esuberante in radio, in varie frequenze, da tutto lì. una cosa è parlare in PMR, l'importante è che si rimanga lì, ecco, una della tutta mia, avevo già un po' avvertito Antonello, se è quello, il... come si dice, il coso della discussione, perché io adesso Antonello non ho capito se sta alludendo a quello o cosa, vabbè, vai Claudio. Ehi, vabbè, già ci ho parlato io, ma come so. No, non è successo niente, è tutto chiarito. Antonello lo conosco una vita, siamo stati 30 anni vicini a casa e non mi ha mai rotto le balle, quindi si può anche fare un... cosa e non per dire gli altri la percepiscono diversamente, ma non è successo niente, cioè ci ho parlato io con Antonio, io va bene così, chiudete il discorso e non se ne va a vedere più, che è di Antonio. Buonasera. E fate appunto per quello. Me c'è una mi sta sillando il cazzo. Porca miseria, ma come cazzo faccio per ammondarla questa? Porca miseria. Vabbè. Già si sta cagando la sola a un certo punto. Avanti che vuole entrare. Buonasera a me, ciao Claudio, ciao Antonello, poi non so chi c'è altro. Saluto nel circolare a tutti, mi prendi Claudio. Ma non avevi entrato insieme, buonasera. Ciao già. Dov'è così tanto? Stavo lavorando, mi ha chiamato una signora, ha fatto un lavoretto lì a Carbonazzi. E sono ritrovato adesso. Cappa, io non ci stavo sera. Andale, avanti Marco. Ma tu Claudio di Gianni? Gianni, cazzo, è proprio il cognome che si addice, cazzo, è molto veloce. È subito difficile fa vita. Ciao Tonino, buonasera, ben ascoltato. Avanti Marco. Veglia. Ciao Tonino, ben ascoltato dopo tanto. Io adesso faccio un attimo il bianco e devo stendere la roba nello stendito interno. Arrivo dopo, dai, se ce la faccio come orario. Se no ritenetevi super salutati, ok? Vai Tonino. Ciao Marco, ciao Tonino, anche a te, ben sentito. Ci sentiamo, state bene, quando vuoi entrare non c'è problema. Avanti già. Sì, allora, chiedo bene a Claudio. Non ho sentito che ha detto Claudio, vabbè. Andà bene. C'è anche Pompugno, che stava facendo ciucu con fa, adesso forse non entrare, avanti. Se mi sta accellando questa, che cazzo può fare? Aspetta un attimo, voglio sapere cosa cavolo vuole, cazzo da me. Ah, c'era il numero di Torino, già si è arrangiato Torino, no, già, non è la vita che ti conosco, sei sempre veloce tu con il microfono. Ah, c'è il numero a Torino, già le risponde Torino. Aspetta, già le mando il numero di Torino, va, c'è problema per quello, qual è? Mamma mia, porca miseria, devo stare cazzo a sedarmi cazzo con queste qua, per carità. Ma ce la sentite? Cosa Tonino? Devo dare il numero di Tonino, e cioè cosa si tratta, cosa è successo? Una ragazza che le sta rompendo le palle a Antonello, Antonello non risponde, le ho detto, passala a Tonino, che già ci parla lui. Ah, io la sto cosa quando la fa cura. Questo di me che sì. E poi se te la giudizio guarda me, passala a Tonino, già sei raggio a Tonino. Ma se uno non ti risponde, vuol dire che non ti vuole parlare. Che cosa rompi le palle? Buh. Ma sono di quelle che chiedono su, di quelle americane, francesi, che ti chiamano. No, americani. No, questo so di una chiesa perché gli ho detto io, a un certo punto. Però problema, c'è l'altra invece che mi chiama, in pratica che vuole i soldi, sia la figlia che la madre, che sono due, in pratica due attori del CIS, capito? Quindi secondo te bisogna catturare i soldi? Non credo proprio, infatti io ho detto a far culo. Ma sono un'organizzazione, ci sono francesi, ti chiamano, ciao amore, ma che sì. Già lo so, non dirlo a me. Cazzo, scrivo prima in francese, poi in italiano e poi in inglese. Scrive in francese, è scritto. Sono un'organizzazione, quelle che ti chiedono soldi, prima parlano molto, poi ti dicono ma non carichi il telefono. No, poi il telefono, la cartina, il discorso è quello. Quella Apple, già lo sai anche tu. Per carità, che schifo, cazzo, ma quando mai? Io stavo, vabbè che stavo, le Iene, l'altro giorno. Allucinante, le truffe che ci sono, è una cosa vergognosa, cazzo. E l'ultima è quella che te le bruciano tutti i soldi del telefono. E non parliamo del mercato nitro, di fare il contratto con loro e l'energia, dico l'energia che è un mercato nitro. Uno va chiamando e dice mercato energia, tu guardi l'energia, a me l'Ene non mi chiama innanzitutto, mi manda una lettera se mai. E dice sì, qua là contratto, li facciamo spendere di meno, sto, non è bisogno, come non è bisogno, io non ne ho contattore, come non ne ha, io ho pannelli solari, e si pensava voi, ma no. Sì, ma lo sai che per i soldi ci vuole il contattore, sì appunto io non ne ho contattore perché ho messo un gruppo elettrogeno e poi sarà tutto telefono. Un'altra cura, energia, torra, la poetana, ti ascolti. Io ho contattore, non ne ho, come non ne ha, io mi sono attaccato da altro lì, ci sono rubato la corrente. Io non ne ho denuncio, ma vada a fanculo, Gitto. No, già, oh Tony, io sono 10 anni con Enel Energia e non mi chiama assolutamente, nel modo più assoluto. Addirittura la mia energia mi manda un sms quando ci sono dei cambiamenti, delle cose, io ho una tariffa variabile, non ho mai avuto problemi. Non chiama nessuno l'energia, futti di. Chissà che truffa è, chissà. Sì, ma infatti gli ho detto, lei a me non mi ha mai chiamato e non mi chiamerà mai. Quindi, ma c'era bene. Sono tutte truffaldine spigliate su. Io lo sbaglio, l'ho fatto un tempo fa quando mi sono messo a Io Energia, a Nova Centesima Kilowattora. A voi invece le bollette che mi sciano, altro che 9 centesimi, era 58 centesimi a kilowattora.